di quel periodo, di quei locali, di quella musica. Ci rimane giusto, diciamo così, i ricordi di quell'epoca grandiosa delle discoteche del Nord Italia. Mando un saluto a un mio caro amico che anche lui apprezza questa musica e con lui ho condiviso alcuni dei momenti più belli della mia vita. Ti mando un caro saluto. Pensate, oggi stavo uscendo di casa, no? Insomma, e c'era una signora che fa, c'era un cagnolino proprio innocuo, no? Quel signore fa: no, no, oh, che paura che ho di quel cane lì, cioè, ma non ho parole, dai, cioè, un cagnolino non fa niente. Ma signora, io il cane non ho mica paura che mi culi, ho paura che mi morda. Arrivederci. Ok, non proprio così, comunque. Grandissimo Renato Pozzetto, veramente. È sempre lui, no? Un mito, ogni tanto arrivano qua casualmente sull'astronave Enterprise. Che state facendo di bello in questo giovedì sera? Insomma, in TV cosa c'è stasera? Il Segreto, tutti quei programmi, direi programmi culturali della terza rete. No, sto scherzando, va bene, dai. Se invece di vedere la TV preferite rimanere con Star Trek, io vi ringrazio veramente, veramente tanto. E ora quando c'è questa sigla, chiamiamola così, sbarazzina, andiamo a cercare, non so, qualche notizia del web, qualche notizia particolare. Ovviamente è il tema di Pierino, il grande Alvaro Vitali. Allora, ho trovato una notizia che vorrei leggervi e fa veramente molto ridere. C'è della gente in giro furissima. Crede di essere incinto perché è un uomo dopo un rapporto gay. Un uomo di 52 anni, pensate un po'. Sì, però facciamo un attimo il volume. Ecco, così va bene allora. Dicevo, un uomo di 52 anni si è fatto ricoverare convinto di essere incinto dopo un rapporto gay. Andare a fare l'ecografia con il sospetto di aspettare un bambino, il cuore che batte forte per l'ansia di sapere se è così o meno. Potremmo definirlo una cosa normale se si parla di una donna, ma un po' meno normale se si parla invece di un uomo. Un 52enne indiano è stato infatti ricoverato qualche tempo fa dopo aver avuto un rapporto con un altro uomo, poiché è convinto di essere rimasto incinto. Ovviamente è stato subito visitato da qualche psichiatra. Il signore, convinto di ciò che affermava, è stato visitato da uno psichiatra, lamentava dolori allo stomaco e diceva di sentire il bambino muoversi all'interno del suo grembo. Bah, non ho parole. Uno dei dottori ha ben prestato subito, l'hanno subito ricoverato e pare sia affetto dalla sindrome di gravidanza isterica, in cui si manifestano dei sintomi simili a una vera e propria gravidanza, però il paziente è stato, diciamo così, subito dimesso. Vabbè, insomma, ragazzi, capitano anche queste cose, siamo proprio convinti di non so, di avere un dolore così, e poi invece non è nulla, non è nulla di preoccupante. Scusate i vari errori, ma stasera sono veramente emozionato. Dopo tanto tempo si ritorna qua sull'astronave Enterprise e un po' di emozione ci sta. Voi che ne dite? Sono 26 minuti primi dopo le ore 22, scusate, leggevo male. Siete sempre all'ascolto di Star Trek, Viaggio nella storia della musica, in compagnia di Andrea, in compagnia soprattutto della nostra musica. Era una trasmissione che andava in onda nel 1999 su Radio Inchiesta Vigevano e l'anno scorso, per l'esattezza, fino a circa maggio l'abbiamo riproposta sul web. Questa sera ero a casa che giravo i pollici e mi sono detto: ma sì, dai, facciamo un'improvvisata e buttiamo in piedi una scaletta improvvisata di Star Trek. Mi ricordo il mio sito internet www.andreamangiarotti.com, facile da ricordare, www.andreamangiarotti.com, e l'indirizzo anche del mio blog, se mi viene registrato il dominio, perché ci sono un po' dei problemi, speriamo vada in porto.